Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, ben ritrovati, buona domenica, nuovo appuntamento con Strade e Motori, come sempre scaletta molto ricca nei nostri appuntamenti domenicali. Vediamo di cosa ci occupiamo oggi. Si è molto parlato negli ultimi giorni del prezzo della benzina, del gasolio. Oggi affrontiamo l'argomento ma da un altro punto di vista, cercando di capire se i carburanti possono essere al passo della lotta per la difesa dell'ambiente e a che prezzo. Ma spazio anche al mercato dell'usato, ad un corso di guida sicura molto particolare e dal cosiddetto risico dell'auto, cioè gli accordi, le acquisizioni, le partnership che vedono protagoniste negli ultimi giorni le principali case automobilistiche mondiali. Partiamo proprio da qui. Nonostante le festività pasquali appena trascorse, è stata una settimana molto intensa dal punto di vista degli sviluppi del mercato dell'auto. L'abbiamo definito un po' il risico dell'auto che si va completando, accordi, partnership che spuntano come funghi, verrebbe da dire utilizzando una abusata metafora. L'accordo della settimana è quello che ha visto protagoniste Renault-Nissan da una parte e Daimler dall'altra. Ha seguito per il Sole 24 Ore questa vicenda, ma non solo, l'inviato Andrea Malan. Guida, diciamo così, del Sole 24 Ore per quanto riguarda le auto. Buona domenica Andrea, ben trovato. Buona domenica a tutti. Allora, innanzitutto inquadraci un po', cosa è accaduto mercoledì, cosa è stato presentato? Dunque, mercoledì è stata presentata un'intesa prevalentemente industriale, come hai detto tu, fra Renault-Nissan da un lato e Daimler, ovvero per i nostri ascoltatori Mercedes come automobili, dall'altro. L'intesa prevede la messa in comune di piattaforme e motori, in particolare per quanto riguarda le piccole auto. Le aziende si sono accordate sul fatto che i prossimi modelli, diciamo, che verranno lanciati a partire dal 2013, quindi fra 2 o 3 anni, sul mercato delle auto piccole, in particolare Twingo per la Renault e la Smart per la Mercedes, saranno su una identica piattaforma, il che, come è intuibile, permetterà a entrambe di risparmiare parecchio sui costi sia di progettazione che di produzione. Una cosa interessante per chi guida è che la futura auto di questo tipo sarà, come l'attuale Smart, a motore e trazione posteriore, quindi una piattaforma molto diversa da quella dell'attuale Twingo. Verrà sviluppata in comune e verrà utilizzata tra l'altro dalla Renault per il suo nuovo modello, dalla Smart per una nuova biposto come quella che possiamo acquistare adesso e per un nuovo modello invece a 4 posti, che sarà un po' l'erede della Smart 4-4 che non ha avuto molto successo negli anni passati. Andrea, un gioco un po' a somma zero secondo te tra Renault, Nissan e Daimler, oppure c'è qualcuno che ci guadagna in effetti? Beh no, in realtà ci dovrebbero guadagnare entrambi. Appunto, le auto verranno fabbricate tra l'altro, quella a 2 posti, nell'attuale fabbrica della Smart, quindi lì non cambierà molto, e quella a 4 posti, sia la Twingo che la nuova Mercedes, in una fabbrica che la Renault ha in Slovenia, che attualmente produce l'attuale Twingo e di cui intuibilmente potrebbero aumentare i volumi. Quindi in sostanza la Daimler ottiene la possibilità di fare delle Smart a costi più bassi e quindi di guadagnarci di più. Ricordiamo che tutto il progetto Smart per la Mercedes finora negli ultimi 15 anni è stata una colossale fonte di perdite, però la Mercedes è costretta a portarlo avanti per un motivo molto semplice, perché le normative antinquinamento impongono dei veicoli con emissioni sempre più basse e quindi in qualche modo la Mercedes deve compensare le auto più grandi, le proprie berline, i SUV molto inquinanti con delle auto piccole. Deve farlo con la Smart, se può farlo a costi più bassi ci guadagna. Per Renault, come abbiamo detto, c'è la possibilità di aumentare i volumi su una stessa piattaforma e quindi anche per lei di produrre a costi più bassi. Senti, i sindacati come l'hanno presa, quelli francesi e tedeschi, per l'occupazione ci saranno ricadute? Beh, i francesi l'hanno presa bene, nel senso che il numero uno di Renault, Carlos Ghosn, ha promesso, diciamo, che ci saranno, l'accordo equivale a 1000 posti di lavoro in più, però non saranno 1000 assunzioni, sarà più che altro, purtroppo, tra virgolette, o meglio per i lavoratori, solamente la possibilità di non licenziare 1000 persone, cioè 1000 persone che magari adesso stanno lavorando meno perché non c'è domanda per le auto, avranno il posto assicurato da questo nuovo accordo, che è sicuramente una cosa positiva. Poi, se il mercato dovesse ripartire ovviamente in futuro in Europa, ci sarebbe appunto la possibilità di fare assunzioni. Tu hai seguito bene anche la conferenza stampa eccetera, ci sono voci di possibili, come dire, ulteriori sviluppi di questo agreement, oppure finisce qui, è soltanto una partnership industriale poco alto. Dunque finisce qui, tra l'altro aggiungo brevemente sì. che nella parte industriale, oltre alla piattaforma comune, ci sono le condivisioni di motori. In sostanza la Daimler userà dei motori piccoli della Renault per le prossime auto piccole, per intenderci la Mercedes classe A e classe B. La Nissan a sua volta utilizzerà per il marchio Infiniti, che è un po' di lusso, dei motori Mercedes, e faranno anche dei veicoli commerciali in comune. Questa è la parte industriale molto corposa, come si vede, che promette di dare grandi vantaggi economici a tutti e tre i partner. Per quanto riguarda il possibile scambio di partecipazioni, per ora è un 3% che Daimler prende delle altre due aziende e Renault e Nissan insieme prendono di Daimler. È stato detto che per ora non c'è nulla di più, anzi per parecchio tempo non ci sarà nulla di più, cioè questa non è una fusione, non è una cosa tipo Fiat Chrysler, dove di fatto Fiat ha preso il comando della Chrysler. È semplicemente una alleanza operativa che promette dei vantaggi molto concreti, e per cementare la quale, per dare, ha detto ieri Ghosn, un segnale al mercato, c'è stato questo scambio di partecipazioni. Per ora comunque non dovrebbe esserci di più, ma comunque è una cosa rilevante, ovviamente. Per concludere, Andrea, diamo un'occhiata globale a quello che è accaduto, per quanto è possibile, negli ultimi 18-24 mesi, in quello che abbiamo definito un po' il risico del mercato e del mondo automobilistico globale. Chi ha vinto e chi ha perso? Ad esempio, le statunitensi hanno, adesso non ho la lista, ma si sono disfatte di tutta una serie di marchi, sia GM che Ford. GM sappiamo che l'anno scorso è passata per una specie di fallimento, da cui poi è riemersa, ma ha dovuto vendere o chiudere moltissimi dei propri marchi. Ha venduto la Saab qua in Europa, ha chiuso la Saturn, ha tentato di vendere la famosa Hummer, quella dei gipponi, ai cinesi, e non ci è riuscita, quindi l'ha chiusa. La Ford ha appena venduto la Volvo ai cinesi, l'abbiamo visto, hanno quindi fatto una cura dimagrante, da cui però potrebbero uscire in teoria in maggiore salute, diciamo, avendo chiuso un po' il rubinetto delle perdite. Chrysler sappiamo che è finita a Fiat. Altri gruppi hanno cercato invece di espandersi. La Volkswagen ha comprato una quota della Suzuki e per sviluppare anche qui un'alleanza molto importante. Diciamo che tutti man mano stanno formando o dei gruppi proprio con fusioni, oppure delle alleanze ampie senza scambi di capitale, di azioni, ma alleanze industriali molto solide. L'obiettivo qual è? Arrivare a produrre su piattaforme comuni un sacco di auto. Marchionne due anni fa ha detto minimo 5-6 milioni. Diciamo che si sta arrivando a 4,5-5 milioni come minimo per ciascuno di questi raggruppamenti. Per ora gli unici rimasti fuori sono in Europa la Peugeot e la BMW, che infatti stavano negoziando, hanno un accordo già industriale, si parlava di uno scambio di partecipazioni, per ora non è andato in porto, ma qualcosa potrebbe venire fuori in un prossimo futuro. E in Giappone invece la Honda, che è molto gelosa della sua indipendenza, ha un livello produttivo attorno ai 3 milioni di auto, quindi medio ma non enorme, però finora se l'è cavata molto bene grazie anche a delle posizioni molto solide in alcuni paesi emergenti. Può darsi che anche lei prima o poi sarà costretta a trovarsi un partner. Ci aggiorniamo nei nostri prossimi appuntamenti con Strade e Motori, sempre con Andrea Malan, che ringraziamo per la sua partecipazione questa domenica. Grazie, a presto Andrea. Buona giornata a tutti, a presto. Si chiama Safe Drive H ed è un interessante corso di guida sicura per persone diversamente abili. Ne parliamo con Paolo Mauri, che è amministratore delegato di ASC Guida Sicura, che è in collegamento con noi. Buona domenica Mauri, grazie per averci raggiunto. Buona domenica a lei e ai suoi ascoltatori. Qual è la filosofia di questo corso Safe Drive H, Mauri? Ma direi una cosa nuova, insomma, uno dei vari progetti che l'ASC porta avanti da qualche anno, così come nuove sperimentazioni. Volevamo fare qualche cosa che fosse appunto veramente una vera integrazione, per cui non è un corso dedicato a persone diversamente abili. Abbiamo ampliato, abbiamo allestito delle vetture per diversamente abili all'interno di un corso di guida sicura che teniamo regolarmente nell'arco dell'anno, rivolto a privati che vogliono appunto provare questa esperienza in pista presso il centro di Vairano. Come è organizzato questo corso? Sono appunto i corsi per privati, sono corsi in genere, sono 24-30 partecipanti, quindi cerchiamo ovviamente di riempire le iscrizioni. E poi abbiamo degli istruttori che sono stati formati proprio per lo scopo, quindi la novità, se vogliamo, quindi aprendo in contemporanea a persone normodotate e a diversamente abili la nostra attività, che è un'attività di una giornata, avremo persone che appunto sono state formate e che verranno dedicate proprio allo svolgimento del corso per diversamente abili. Il tutto ovviamente si svolge su vetture per i diversamente abili che sono debitamente attrezzate proprio per questo tipo di impegno, immaginiamo. Assolutamente sì, ed è però ecco, una delle novità, quindi prima di tutto direi integrazione con all'interno di nostri corsi normalmente aperti al pubblico. Sì. E per di più però in quello che cercheremo di fare formando per persone diversamente abili, cercheremo di coinvolgere anche ovviamente case costruttrici, compagnie di assicurazione, l'INAIL ovviamente se vorrà partecipare, cioè vorremmo che fosse in contemporanea un corso di formazione ma anche veramente una sorta di sperimentazione, cercando di migliorare per quello che è possibile l'allestimento, che ovviamente è un allestimento speciale, dove però credo che sia stata fatta tutto sommato poca ricerca. Oggi abbiamo un cambio automatici, abbiamo controlli vocali e credo che tutto questo possa sicuramente essere d'aiuto durante una fase di sperimentazione pratica, che poi è il corso di guida sicura vero e proprio. Formazione, sì. Formazione, integrazione, formazione e collaudo un po' allo stesso tempo. Mauri. Molto ambizioso, vediamo se ci riusciamo. Certo. Dove si svolgono questi corsi, Mauri? Allora, centro di Vairano di Vidigulfo, che è provincia di Pavia, quindi siamo a un quarto d'ora veramente a sud di Milano, tangenziale, a sud della tangenziale di Milano, tra la Milano-Bologna e la Milano-Genova, giusto per intenderci, e anche però ci stiamo organizzando con il nostro partner del centro Italia, quindi anche presso il centro di Anagni. Quindi siamo a sud di Roma, quindi è una trentina di chilometri a sud di Roma. Quindi nei pressi delle metropoli c'è la possibilità di frequentare questi corsi. Per chi fosse interessato, ancora una battuta in conclusione, come fa a raggiungervi, Mauro? Allora, due indirizzi email: asc@edidomus.it oppure corsidiguida@4ruote.it. Benissimo. Telefono invece, per chi volesse delle informazioni così più rapide e immediate, 0382 699 2224. Abbiamo completato anche questo tipo di informazioni. Noi ringraziamo l'amministratore delegato di ASC Guida Sicura 4 Ruote, Paolo Mauri, che è stato ospite di Strade e Motori. Buona domenica e a presto. Grazie ancora. Strade e Motori. Strade e Motori. Seconda parte di Strade e Motori che riparte con le notizie dal mondo in movimento. Oggi grande attenzione dedicata all'elettrico. Subito dopo parliamo di auto usate. Il mese di aprile è iniziato da pochi giorni, ma le previsioni per il mercato italiano dell'auto parlano già di minimi storici. Stando alle previsioni dell'UNRAE, l'Associazione delle Case Costruttrici Straniere, infatti, questo potrebbe essere il peggiore quarto mese degli ultimi 12 anni. In marzo, molto bene Renault, con quasi il più 100% rispetto al 2009. Alleanza Ford-Microsoft per l'auto elettrica. A New York, la casa americana ha presentato un progetto che permetterà di lanciare 5 nuovi modelli, ibridi o totalmente elettrici, entro il 2013. Queste vetture saranno dotate di OHM, un'applicazione Microsoft che aiuterà gli automobilisti a determinare il momento migliore per caricare le loro vetture elettriche e per risparmiare energia. E chi vira decisamente verso l'elettrico è la Spagna. Il governo Zapatero ha presentato un piano d'azione per quasi 600 milioni di euro per promuovere la diffusione dell'auto elettrica. Gli aiuti statali potranno raggiungere i 6.000 euro per auto. L'obiettivo è toccare quota 20.000 immatricolazioni di auto elettriche l'anno prossimo e 50.000 nel 2012. Il blog del direttore di 4 Ruote sul sito internet è sempre una miniera di spunti, di curiosità molto interessanti. Oggi prendiamo di peso un argomento che Mauro Tedeschini ha trattato sul suo blog in questi giorni, ovvero le auto usate che sono tornate nel cuore delle case produttrici. Buona domenica, direttore, grazie per Buona essere con noi. A voi. Allora, come mai, direttore, dopo anni e anni in cui le auto usate venivano un po' snobbate dalle grandi case, dalle grandi marche, adesso invece, come dicevo, sembrano essere tornate nel cuore? Diversi motivi. Il primo è che le case si stanno rendendo conto che si vende meno nuovo, non ci sono più gli incentivi, non solo in Italia, e quindi c'è bisogno di far lavorare questi concessionari che hanno a loro volta delle aziende importanti da far funzionare, e quindi si sta tornando a puntare su un usato che è però un usato non decrepito come poteva capitare di vedere qualche anno fa nei saloni, ma è un usato, diciamo, quasi nuovo, un usato che ha al massimo 3 anni e che viene garantito dalle case con tutta una serie di ricondizionamenti, e soprattutto viene proposto ai clienti con le stesse tecniche del nuovo, e quindi finanziamenti, garanzie, addirittura possibilità di avere l'automobile in permuta. E questo riguarda un pochettino tutti i marchi, dai cosiddetti generalisti, quindi chi propone automobili di massa, ma anche riguarda per esempio la Ferrari, che mai si era occupata in questo modo dell'usato, riguarda l'Audi, insomma riguarda anche marchi di prestigio che stanno proponendo dei programmi dedicati, addirittura con dei porte aperte pubblicizzati in comunicazioni anche nelle radio come la vostra, con sabati e domeniche in cui si tratta appunto quasi esclusivamente l'usato, e comunque l'usato è il protagonista invece di essere sempre stato un po' la Cenerentola a fianco del nuovo. Sono sconti veri, direttore? C'è da approfittare di queste opportunità, oppure, come dire, c'è sempre comunque una strategia per massimizzare il guadagno da parte delle case? Ma allora, ovviamente le case puntano a guadagnare, puntano anche a fidelizzare dei clienti che in altro modo non riuscirebbero a catturare, per esempio le marche più di prestigio. È ovvio che con questo usato, diciamo quasi nuovo, noi l'abbiamo chiamato lavato con perlana per fare il raffronto con un vecchio spot di successo, ovviamente bisogna giudicare un pochettino caso per caso, però secondo noi si tratta di una proposta interessante, perché finalmente anche in Italia si sta perdendo questo senso di frustrazione che c'era in passato, quando si pensava che l'usato fosse sinonimo di bidone. Non è così. Se è un usato, ripeto, fresco, venduto da concessionari di cui ci si fidi e da marche importanti, secondo noi lì ci sono delle opportunità molto ma molto interessanti, ma molto molto buone, anche perché si possono comprare delle automobili che poi sono rivendibili dopo non molto tempo a dei prezzi non drammaticamente lontani da quelli di acquisto. Teniamo conto che le macchine si svalutano soprattutto nei primi 24 mesi, e quindi chi compra queste macchine può avere delle automobili, ripeto, quasi nuove, che magari hanno fatto non più di 15-20 mila chilometri, che hanno davanti molta strada, perché ormai le macchine arrivano a 200 mila senza nessun tipo di problema, e che hanno un rapporto qualità-prezzo molto interessante. Ora, in tempi di crisi, credo che sia un tipo di opportunità che è meglio quantomeno considerare, ecco, se non cogliere. Direttore, per concludere, secondo lei è una strategia a lungo termine, quindi che può andare avanti anche in futuro, oppure alla fine, che ci auguriamo arriverà presto, di questa crisi, quando il mercato si rimetterà in moto, le case costruttrici, le case produttrici torneranno a dimenticare l'usato per puntare ovviamente sul nuovo, su modelli nuovi? No, io penso che sia una strategia di lungo periodo, nel senso che le case si stanno rendendo conto che non possono continuare a produrre 100 macchine quando il mercato ne richiede 50, e quindi pensano che il loro business, appunto, dei loro concessionari, i loro saloni, possa stare in piedi fornendo loro meno macchine nuove e invece convincendo i venditori a trattare un pochettino meglio l'usato. In realtà ci si è resi conto che se si lavora correttamente si può guadagnare bene anche sull'usato, e quindi alla fine, insomma, ci può essere un tipo di business che può essere conveniente per tutti. Quindi io credo che ci stanno investendo perché lo considerano un programma di lungo termine, e penso che ai primi che sono partiti negli ultimi mesi, altri seguiranno molto presto, e quindi, ripeto, si tratta di un'alternativa che vale la pena di considerare, perché molto spesso può convenire anche più del nuovo. Allora, grazie a Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote, che ci ha fatto compagnia in questa domenica pomeriggio. Buona settimana, direttore, e a domenica prossima. Buona domenica a voi, arrivederci. Come vi avevamo preannunciato, è arrivato il momento di parlare un po' di carburanti, perché sono sfide importanti quelle che una grande industria del carburante internazionale, Shell, sta per affrontare e ha già intrapreso da tempo. È il momento di collegarci con Giuseppe D'Arrigo, consigliere delegato Aria Business Rete e direttore della rete Shell Italia. Buon pomeriggio a tutti e grazie a voi per avermi come ospite. Il concetto di sviluppo sostenibile è un po' la sfida che Shell oggi deve affrontare. Ecco, con quali impegni e con quali strumenti, dottor D'Arrigo? Lo sviluppo sostenibile è una sfida che tutti quanti abbiamo, che ci siamo posti come settore, per venire incontro a quelle che sono le esigenze anche moderne dei consumatori e anche dei bisogni energetici del pianeta. Questo vuol dire per noi investire in tecnologia per sviluppare prodotti e tecnologie che permettono di migliorare l'efficienza dei consumi, quindi in pratica consumare meno, ma soprattutto anche abbattere e ridurre il più possibile le emissioni di CO2 e anidride carbonica, perché questa è anche un'altra sfida che noi abbiamo preso da protocolli di Kyoto e dalle varie iniziative a livello globale. Per noi questo vuol dire impegnarci con sviluppi consistenti prima in risorse, i talenti. Noi abbiamo un gruppo di circa 4.000 ingegneri scienziati che nel gruppo Shell lavorano ogni giorno per sviluppare queste tecnologie, ma anche investendo soprattutto nelle persone e con iniziative di ampio respiro. Una tra queste è la Shell EcoMart, è un'iniziativa dove noi incentiviamo studenti di licei, università a livello mondiale per produrre dei veicoli che utilizzano in modo efficiente i prodotti disponibili. Tra questi mi piacerebbe magari fare un esempio. Noi abbiamo tra i nostri gruppi di studenti italiani un gruppo che viene all'Istituto Tecnico Bucci di Faenza, che ha partecipato alle ultime 14 edizioni della Shell EcoMart, che si svolge ogni anno, sviluppando un veicolo nel settore urban concept, che sono praticamente, per darle idea, macchinine tipo dimensioni della Smart, che con un prodotto che si chiama GTL riescono a percorrere fino a 250 km con un litro. Ecco, questo è un esempio concreto. Vede crescere la sensibilità da parte di quelli che lei definisce proprio gli automobilisti di tutti i giorni, quindi il consumatore finale, circa il rispetto a queste esigenze? Ma io direi assolutamente sì. Il cliente è un cliente attento non solo per quanto riguarda la parte consumi, quindi efficienza, ma anche soprattutto per quanto riguarda l'impatto ambientale. Credo che l'innovazione in questo caso sia fondamentale, quindi l'investimento in queste risorse sia assolutamente necessario, ma credo che alla fine sia importante rendere visibili alle persone tutti i giorni queste innovazioni. Noi già lo facciamo perché i nostri prodotti, noi abbiamo già introdotto questi elementi. Il B-Power Diesel, che è l'equivalente di B-Power Benzina, contiene questo GTL di cui le dicevo prima, già dal 2003, e questo ha contribuito a ridurre sensibilmente quelli che sono gli impatti, specialmente della produzione di particolato e l'impatto ambientale in Italia sulle nostre strade. Grazie allora a Giuseppe D'Arrigo, consigliere delegato Area Business Rete e direttore Rete Shell Italia, ospite questa domenica di Strade e Motori. Buon lavoro e a presto. Grazie a voi. E siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento di oggi, di questa domenica di Strade e Motori. Grazie per aver viaggiato con noi, grazie a Peter Bescapè per averci guidato in regia. Vi lascio al pomeriggio sportivo di Radio 24, Carlo Gente, i suoi ospiti, i suoi approfondimenti, prima le notizie del giornale radio. Noi ci ritroviamo domenica prossima alle 16.30 su Radio 24 per una nuova puntata di Strade e Motori. Buona settimana a tutti.